proprio non fanno per me. Ma sono emozioni che proprio non fanno per me. Vivo la vita come viene, senza serie e genialità. Ma quando mi trovo in certi momenti, io vorrei solo scappare e non tornare più. Scappare e poi volare giù. Pensare come ritornare, togliere, ricominciare a volare. Scappare e non tornare più. Proprio non riesco a capire ciò che mi aspetto mi succederà. Non riesco neanche a immaginare ciò che la vita mi riserverà. Io qui dentro non posso stare, questa gente non è fatta per me. Ma di una cosa sono sicuro, che con la mente io potrò scappare e non tornare più. Scappare e poi volare giù. Pensare come ritornare, togliere, ricominciare a volare. Scappare e non tornare più. Ah, fa caldo. Viva l'amore, tutti nudi. Mi rivesto solo per coprire le macerie, lo faccio per una volta.